Giovedì 10 gennaio del 2013, sono le 14 in punto e va in onda Visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15, per parlare di cinema su Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni. La radio è di chi se la sente, e chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma, oppure sul sito internet della radio www.ondarossa.info. alla voce sostieni troverà anche la modalità PayPal. Bene, per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi, le informazioni le trovate sempre sul sito internet della radio, alla pagina trasmissioni visionari per l'appunto, tra l'altro con i risultati delle ultime due puntate, che erano il gioco delle cinquine che facciamo ogni anno per stabilire attraverso il collegamento con diversi amici e colleghi critici quali sono i cinque film in sala preferiti del 2012. Abbiamo avuto 15 ospiti: Alberto Crespi, Steve Della Casa, Giorgio Gosetti, Emanuela Martini, Valentina Neri, Anna Maria Pasetti, Federico Pontigia, Valerio San Marco, Mario Sesti, Roberto Silvestri, Maurizio Di Rienzo, Nicola Falcinella, Fabio Ferzetti, Paolo Mereghetti e Giovanni Spagnoletti. E alla fine abbiamo anche tirato le somme di questo di queste votazioni, in cui era possibile anche menzionare, se non fossero stati inclusi nelle cinquine, un documentario in italiano. E per cui i risultati ci dicono che il film preferito del 2012 è stato Ugo Cabret di Martin Scorsese con 10 voti. Poi c'è Amour di Michael Haneke con 9 voti, Skyfall di Sam Mendes con 4 voti e 2 menzioni, Il sospetto di Thomas Vinterberg con 4 voti e L'intervallo di Leonardo Di Costanzo con 3 voti e 3 menzioni, che tra l'altro è anche il primo degli italiani a riscuotere questo successo, quindi entra nella cinquina ed è anche il primo degli italiani. Per quanto riguarda invece gli ospiti della puntata di oggi, li trovate sempre sulla pagina Visionari, come trovate anche le uscite dei film in sala di oggi, giovedì 10 gennaio, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e anche gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, per quanto riguarda festival, rassegne e quant'altro. In fondo alla pagina trovate poi il link che rimanda alla archivio del radioteatro, dove in podcast trovate tutte le puntate del 2012. Diamo inizio ai collegamenti. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il primo collegamento è con Cristian Carmosino. Intanto auguri, caro. Auguri a tutti e a tutte. Con te per parlare di una rassegna, mese del documentario, premio Doc It alla Casa del Cinema, è cominciata all'inizio di questa settimana, il 7 gennaio, andrà avanti fino al 15 febbraio. Si tratta di una doppia rassegna perché interessa dei lavori italiani e dei lavori internazionali. Allora Cristian, parlacene un po'. Sì, sono una doppia rassegna, un doppio concorso anzi, che unisce due manifestazioni, una alla terza edizione e l'altra alla seconda, che sono il Doc It Professional Award e il Doc International, entrambe organizzate dall'Associazione Italiana Documentaristi. Questi due concorsi vedono in competizione tra loro 5 documentari italiani e 5 documentari stranieri selezionati tra i migliori della stagione precedente. Quindi gli italiani competono per il Doc It Professional Award, mentre gli internazionali per il Doc International. Cristian, scusa se ti interrompo, sì. I migliori, quali sono stati i criteri di selezione? Per il concorso italiano è un meccanismo piuttosto complesso, perché sono selezionati tutti i documentari prodotti in Italia nell'ultima stagione. Sì. Vengono raccolti nel database dell'Associazione Documentaristi, che ha un portale dedicato al documentario. Sono mediamente 200 film l'anno, noi ne abbiamo raccolto per questo tipo di competizione oltre 100, sì, che sono stati visti da una giuria di preselezione composta da 20 professionisti che sono per la maggior parte direttori di festival e giornalisti, dal direttore del Festival di Torino, Roma, anche il Festival Vision Durel in Francia, Annecy, Cinéma Italien, Salina, eccetera, più alcuni giornalisti e critici cinematografici. Loro hanno fatto questa selezione, cioè hanno visto questi 100 documentari e ne hanno tirati fuori 21 quest'anno, che sono stati messi online successivamente e visti da un'academy di 120 professionisti del cinema, in buona parte documentaristi ma non solo, e non solo registi ma anche produttori, tecnici, direttori della fotografia, eccetera, e che hanno potuto vederli nell'arco di 2 mesi, lo scorso anno, nel mese di ottobre e novembre, e hanno decretato tra i 21 i 5 finalisti, diciamo le 5 nomination. Sì. E sono le 5 nomination che noi adesso presentiamo alla Casa del Cinema. E il primo vincerà 3.000 euro offerti dall'Associazione Documentaristi, e poi ci sono altri premi tecnici per un valore complessivo di 47.000 euro a tutti e 5 film, più anche altri che entrano, diciamo, in una selezione. Per esempio c'è un premio che è molto ambito, che è il più ambito, il premio Microcinema, che consiste nella distribuzione in sala nel prossimo anno del film vincitore, ed è un premio di un valore appunto di 30.000 euro, una distribuzione in sala in tutto il territorio nazionale con oltre 100 proiezioni garantite. A proposito di Cristian, a proposito di Cinquine, non so se hai avuto modo di sentire o comunque sei venuto a conoscenza di questa sorta di gioco che facciamo a inizio anno con... Sì, ho seguito. E quindi è risultato al quinto posto tra i più graditi della passata stagione rispetto ai film documentari usciti in sala, L'intervallo di Leonardo Di Costanzo, che ha avuto 3 voti e 3 menzioni. Sì, è un ottimo film. Non è esattamente un documentario, sì, forse, sì. Però è comunque il primo film, diciamo, di finzione di un documentarista. Sì. che insomma, che è amico di tutti noi e che stimiamo. penso che questi 5, diciamo, finalisti rappresentano un po' il meglio del documentario italiano, sì. per dire, cioè, a parte il film che abbiamo appena visto, che è bellissimo, che comunque è ancora possibile vedere sabato e domenica prossima, che è Lasciando la Baia del Re, poi ci sono Bad Weather di Giovanni Giommi, c'è Freak Beat di Luca Pastore e 2 film che sono più conosciuti per 2 motivi diversi: uno è L'estate di Giacomo di Alessandro Comodin, che ha avuto anche una distribuzione in sala lo scorso anno, uno dei pochi documentari, perché saranno massimo 2 l'anno, 3 l'anno, che riescono a uscire in sala. Naturalmente escono nelle modalità che possiamo immaginare, quindi insomma poche sale, con le difficoltà che in genere hanno i film indipendenti, mentre il quinto film è Tahrir di Stefano Savona, che ha vinto il Baide di Donatello ma non ha una distribuzione. Noi lo facciamo vedere e speriamo, insomma, di aiutare a avere una seconda vita, anzi una prima vita, nella stagione che viene. Vorrà dire qualcosa il fatto che tutti e 5 questi autori, per parlare proprio di questi lavori, sono stati anche ospiti qui a Visionari, insomma. Sono stati ospiti perché tu sei un eccellente osservatore del mondo del documentario. Ti ringrazio. Senti Cristian, passando invece alla selezione internazionale. La selezione internazionale, i film sono stati selezionati da un piccolo comitato di selezione, però direi eccellente anch'esso, perché sono 5 documentaristi che hanno viaggiato tutto il mondo, non apposta per vedere questi film, ma con i loro film magari nei festival, e hanno potuto vedere altri film, che sono Gustav Hofer, che conoscerete, Emma Rossilandi, Giulia Amati, Vincenzo De Cecco e Mariangela Barbanente. Sì. Loro hanno raccolto nei festival dove sono andati, stiamo parlando di IDFA piuttosto che Toronto, insomma i maggiori festival del mondo di documentario, hanno raccolto 25 titoli, li hanno guardati insieme e ne hanno selezionati 5, che sono tutti titoli che hanno appunto vinto i maggiori festival del mondo e che in Italia non hanno mai avuto una proiezione. Mm-hmm. E domani sera c'è The Interrupters di Steve James, che è un film appunto sulla violenza, anzi gli Interrupters sono gli interruttori di violenza letteralmente, e sono delle persone che appunto vogliono mettere fine al ciclo di violenza che è presente nella loro comunità, in questo caso Chicago, che è la città considerata più violenta d'America. Ed è molto interessante perché è parlato con uno slang fortissimo, quindi addirittura in alcuni pezzi è stato anche complicato fare i sottotitoli perché c'erano già dei sottotitoli inglesi, mm-hmm, nonostante sì, loro parlassero inglese. Quindi, sì, sì, sì, sì. Poi ci sarà a seguire China Heavy Weight, che è un film cinese-canadese che parla appunto dei boxer, di una scuola di box cinese. Poi Steam of Life, che è un film finlandese di Jonas Bergal e Mika Hatakainen, se lo sto dicendo bene, che è un documentario tutto ambientato in una sauna di vapore finlandese, e vi lascio immaginare. E poi Five Broken Cameras, che è un documentario che ha ricevuto numerosissimi premi, un documentario palestinese che parla appunto di queste 5 telecamere che sono servite a questo bracciante palestinese che si chiama Emad per realizzare questo documentario, queste 5 camere che si sono appunto distrutte durante le riprese del documentario. Mm-hmm. E per terminare poi con The Harbor, l'ultimo giorno, l'8 febbraio, che è questo documentario inglese di Clio Bernard. Sono 5 documentari di qualità, anche quelli internazionali, straordinaria. Io ogni lunedì noi abbiamo l'anteprima del film italiano alla presenza del regista in sala alla, sì, Casa del Cinema, sì, alle 21:30, in replica poi il film italiano il martedì, il sabato e la domenica, il martedì sempre in orario serale, il sabato e la domenica invece in orario pomeridiano, mentre il film internazionale ha la prima il venerdì sera e con un incontro con l'autore, che in questo caso è su Skype, un incontro Skype con l'autore a seguire, e in replica la domenica pomeriggio alle 18:30. Comunque, senza che do troppi dettagli, abbiamo un bellissimo sito dove ci sono tutte le informazioni, ci sono i trailer, ci sono le schede dei film, ci sono le interviste ai registi anche in video, quindi basta, ci potete cercare sia su Facebook con Il Mese del Documentario, anche c'è il sito internet che è ilmese.documentaristi.it. Benissimo. Mi volevi chiedere qualcos'altro? No, sei stato completamente esaustivo. Bene, Cristian. Questa volta me la sono cavata bene. Ammazza, sì, preparatissimo. Allora, Cristian, ricordiamolo, da qui fino al 15 febbraio, 5 documentari italiani, 5 internazionali, un in bocca al lupo. Che il lupo, in bocca al lupo ai registi, cioè, tra l'altro, eccomi, l'unica cosa che dimenticavo, anche un premio del pubblico, quindi bene. Invito il pubblico a venire a dare il proprio giudizio sui film, sia l'internazionale che l'italiano riceveranno un premio in denaro però da parte quello italiano da parte è un premio da parte di Fake Factor, è un premio tecnico, mentre il premio internazionale che prima non ho citato sono 1000 euro, sempre offerti dall'Associazione Italiana Documentari. Bene, bene. Cristian, di nuovo auguri, a risentirci presto. Auguri, anche ciao, a voi, a presto. Ciao. Cristian Carmosino, il regista Cristian Carmosino, che ci ha parlato della rassegna Mese del Documentario, premio Doc It alla Casa del Cinema qui a Roma. Di nuovo, per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Proseguiamo con le rassegne. È con noi Matteo Berdini del Kino, il cinema del Kino, il Cineclub del Kino, che ospita il Rain Dance Film Festival di Londra dal 23 al 27 gennaio. Matteo, intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao, grazie mille, grazie anche per averci invitato. Allora, ti chiamo con un certo anticipo perché ci sono delle cose che chi ci ascolta deve sapere, giusto? Beh sì, direi di sì, insomma, sperando anche che le recepiscano e vengano da noi. Allora, dici un po'. Noi dal 23 al 27 di questo mese, di gennaio, ospitiamo un festival inglese, londinese per essere precisi, a Roma, ed è la prima volta che vengono in Italia. Siamo riusciti, come dire, a capirci con loro e portano 5 film nuovi, film che sono stati ospitati in questo festival che si chiama il Rain Dance Festival di Londra, e porteranno anche una serie di workshop, tra cui uno gratuito, il 23, di un paio d'ore, che si chiama 99 Minute Film School, e poi porteranno due workshop a pagamento, prezzi ovviamente assolutamente popolari, a meno della metà del prezzo a cui li fanno abitualmente loro, sulla scrittura di film low budget e no budget e sulla produzione, quindi come trovare collaboratori, come pensare il film, come fare la pre e post produzione per film a low to no budget. Ci tiene a dirlo il fondatore del Rain Dance, che è anche colui che tiene il workshop, si chiama Elliot Grove, perché lui dice: è possibile fare film con poco, spesso con niente, basta avere l'idea giusta e sapere come metterla in scena. Mm-hmm. E la prova, diciamo, è sotto i nostri occhi, perché i film che porterà sono praticamente 4 su 5 frutto di produzioni low to no budget. Mm-hmm. Tra l'altro è una pratica sempre più diffusa questa dei film a praticamente zero budget. Il problema storico è quello della, non più che della produzione, quello della distribuzione, anche se si stanno tentando varie strade in proposito, soprattutto grazie al web o a circuiti di sale indipendenti. Sì, sì, sì, indubbiamente, diciamo che anche con un po' di ritardo, però anche l'Italia per certi aspetti si sta, non dico adeguando perché sembra sempre una parola un po' brutta, conformarsi, sì, sì. Però diciamo abbiamo capito che così si può fare, piuttosto che lamentarsi e aspettare che facciano una serissima riforma dell'apparato produttivo nazionale, insomma si può fare oggi con delle macchine che costano meno di 2000 euro, si possono fare dei film con una pasta cinematografica. Quello che serve davvero è saperla scrivere la storia, come dice Elliot Grove, in questo siamo tutti d'accordo, sì. E il workshop di sabato 26 parla proprio di questo, parla proprio di come scrivere, writing for low budget film. Scrivere una sceneggiatura è il primo passo, perché ovviamente io non mi potrò permettere una scena di massa, certo. Oppure una scena con una tigre che è da domare, per cui scrivere per poter poi realizzare, sì. Insomma le conoscenze non ci mancano, basta solo un po' di intelligenza, tutto qui. Quindi una scrittura adatta al budget che si ha a disposizione, chiaramente. Esatto. Che sia misurata su quello, ecco. Che spesso sono molto risicati. Uno dei film che abbiamo si chiama Strings, è un film di un giovanissimo inglese che si chiama Rob Savage, che io spero riusciremo a far venire. È un ragazzo simpaticissimo. Questo film è stato fatto con una spesa di 3.000 sterline, questo tutto ovviamente assolutamente verificato dal produttore, che è lui stesso, Rob Savage, e l'ha fatto a 18 anni. Aveva una buona idea, aveva degli amici attori molto bravi e aveva le maestranze, tra virgolette, il direttore della fotografia, che ha fatto anche l'operatore, e aveva un occhio soprattutto, un punto di vista e una buona sceneggiatura. Con 3.000 euro, 3.000 pound, quindi poco più di 3.000 euro, ha fatto questo film che è andato al Festival di Roma quest'anno, nella sezione Alice in Città. Mm-hmm. E noi abbiamo, diciamo, un'anteprima per il pubblico, ma in verità l'anteprima festival l'hanno fatta loro. Però insomma, arrivare secondi dopo un festival internazionale, certo. Ci può stare, siamo contenti. Senti Matteo, i 5 film che ospiterete li hanno scelti loro o c'è stato anche un vostro intervento? No, c'è stato, diciamo, loro hanno proposto una serie di film, ci hanno mandato quelli che si chiamano i DVD screener, cioè dei DVD con sopra una specie di watermark, i segni della produzione, così uno non li usa. E li abbiamo visti e abbiamo tirato fuori quei 5 film che potevano essere in linea con l'intento degli workshop, vale a dire produzioni low budget, sicché ci siamo principalmente concentrati su film fatti con pochi soldi, con ottime idee, magari non perfetti, magari non capolavori, che però potessero dare alle persone che ci stanno seguendo e che verranno ai workshop un'idea di come partire, di come poter fare. L'esempio che ti facevo prima era Stings, questo film inglese. C'è un altro film che è un documentario che si chiama Jason Baker ed è un film su un chitarrista che insomma un po' poteva essere il futuro, come dire, una specie di promessa per il rock del 2020, che è stato colpito 15 anni fa dalla SLA, dalla sclerosi laterale amiotrofica, e lui nonostante tutto si è impuntato e è riuscito a far musica nonostante sia praticamente paralizzato. Questo documentario è fatto con meno di 10.000 sterline, ma è un documentario di un grande impatto emotivo. E poi si arriva fino a film veri e propri, tipo c'è un film finlandese che si chiama Indebted, è fatto anche questo con pochissimi soldi, non credo che abbiano speso più di 15.000 euro, ma è già una produzione che sta nei cinema, quindi stiamo già pensando alla grande sala, alla grande distribuzione. E non è preciso, ha un setup molto lungo, però ci sono delle cose molto belle e si può imparare, io credo che la gente possa imparare vedendolo, per cui è importante che noi l'abbiamo. Ecco. Quindi ecco, un intervento c'è stato da parte nostra. Ecco, proprio a questo proposito, Matteo, diamo due indicazioni per quanto riguarda le informazioni generali. Certo, una è come sarà strutturata questa 4 giorni del Rhine Dance Film Festival al Kino. Allora, partiamo con il 23, che è un mercoledì, ospiteremo Elliot Grove, che è il fondatore del Rhine Dance Festival, e sua moglie, che è la fondatrice e cofondatrice. Non so se si sono incontrati prima o dopo fondare il festival, però insomma so che lavorano molto bene. Arriveranno insieme a Raffaella Pontarelli, che è una italiana che lavora a Rendez, che è stata la nostra testa di ponte, perché conosceva il Kino, noi conoscevamo lei, sapevamo che era suo, quindi ci siamo conosciuti. Quindi arriveranno a Roma, verranno al Kino e alle 17.30, più o meno di mercoledì 23 gennaio, e presenteranno il festival brevemente, perché poi alle 18 partiamo immediatamente con un workshop gratuito, quindi aperto a tutti, di cui parlavo prima, la Film School di 99 minuti. In 1 ora e 40 ci dà più o meno tutte delle dritte, dei consigli per poter mettere su una produzione e poter fare il nostro film, che poi non è altro che un'ossatura di quello che saranno i workshop successivi, più nel dettaglio. La sera avremo subito i primi due film e faremo vedere il Jason Baker di cui parlavo prima, questo documentario di questo chitarrista rock, e poi mostreremo un documentario, anche questo in prima visione, che si chiama Trashed, cioè proprio immondezzato, ecco, se possiamo tradurlo così com'è. È un documentario che parla di come l'immondizia viene gestita nel mondo, della grossa crisi dell'immondizia che potrebbe produrre da qui a 10-15 anni, e la cosa bella è che la linea guida, l'attore che ci guida nel mondo e che ci racconta la storia è Jeremy Irons, quindi è un personaggio che tutti conosciamo, ha coprodotto il film, è un low budget per la produzione anglo-americana ovviamente, però questo è costato un po' di più, è quello che è costato di più tra quelli che abbiamo prodotto, che mostreremo al Kino. Il giorno dopo attaccheremo alle 9:30 con il primo workshop, che è Low to No Budget Film Production. Lo dico in inglese perché il workshop sarà in inglese, però ormai neanche ai colloqui ce lo chiedono più se conosciamo l'inglese, stanno quasi per scontato, quindi. Però noi l'abbiamo scritto, quindi abbiamo messo anche un campione di intervista a Elliot Grove per capire se capiscono. Il suo inglese è pulitissimo, lui è canadese, parla davvero meglio di un professore. Andremo avanti fino alle 6:30 di sera con questo workshop e faremo vedere un film gratuito ai partecipanti al workshop. Poi la sera avremo altri due film a partire dalle 7:30, dalle 8:30 avremo il primo e il secondo film del Rendez Festival. Il giorno successivo continuerà il Low to No Budget, altro film gratuito per i partecipanti, sì. Altri due film invece per le persone che vengono. Quindi la struttura, esterno, bene o male, è questa. È questa. Per avere maggiori dettagli diamo come riferimento il sito internet del Kino. Sì, o il sito internet o Facebook, dove abbiamo insomma parecchi amici, credo che sia un canale anche un po' più semplice da accedere, sì. Oppure l'applicazione per iPhone e iPad, per ora siamo lì, poi insomma speriamo di sviluppare qualcosa per Android da qui a qualche tempo, anzi se qualcuno ci sente e sa sviluppare applicazioni per Android o Windows Phone si faccia avanti. Senti Matteo, la seconda e ultima cosa è chiaramente per chi fosse interessato ai workshop, cosa deve fare materialmente? Chi è interessato al workshop può sia scrivere un'email alla nostra super Serena che si occupa dell'organizzazione, alla info@ilchino.it con la K, quindi info@ilchino.it, oppure andare sul sito, vedrà subito che tra le prime due news ci sono il Festival Rendence a Roma e all'interno delle news troverà sia un form per pagare tramite PayPal di fatto, oppure l'indicazione del bonifico per potersi iscrivere ai nostri workshop. E, insomma, i prezzi sono abbastanza popolari, si va da 75 euro per il workshop sul writing fino a 199 per tutti e due i workshop compresi, tra l'altro di pranzi, di visione e di tesserachino. Quindi insomma, considerando che costavano 500 pound tutti insieme, ci siamo impegnati a tenerli bassi i prezzi. Bene. Il primo è gratis, come dicevo. Bene. Matteo, mi sembra di averti fatto dire tutto. Un abbraccio e a risentirci presto. Ok, grazie mille, grazie anche a chi ci ha ascoltato. Insomma, vi aspettiamo al Chino. Ciao, ciao. Ciao, a presto. Matteo Berdini del Chino, che ospita dal 23 al 27 gennaio il Raindance Film Festival di Londra. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Parliamo adesso di cinema curdo. Siamo in collegamento con Heavy Dilara, che cura la direzione artistica di Evia Azadie, Speranza di Libertà, la quinta edizione del Festival del Cinema Curdo che si tiene al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma dal 16 al 20 gennaio. Heavy, tanto ben ritrovata. Ciao, buongiorno a tutti. Tra l'altro noi ci sentiamo in genere sporadicamente durante l'anno e spesso in riferimento proprio al Festival del Cinema Curdo. Quest'oggi con una notizia terribile che ci arriva da questa mattinata a Parigi sono state uccise tre attiviste curde all'Istituto Curdo appunto di Parigi, la più giovane di 20 anni e la più anziana di 50, una delle tre tra l'altro una delle cofondatrici del PKK, sono iniziate subito delle manifestazioni a Parigi, nel pomeriggio ne sono previste altre. A questo punto ti chiedo se hai altre notizie nuove per chi ci ascolta. Veramente le notizie non ne ho tante, le notizie che un po' delle precisioni dalle cose che ho letto sulle agenzie curde. Tra l'altro la ragazza che faceva parte del congresso nazionale curdo, che lei lavorava all'ufficio informazione del Kurdistan a Parigi, era anche mia amica che conoscevo molto bene, anche l'altra, cioè tra due queste donne compagne che conoscevo molto bene, per noi è stata una notizia molto dolorosa. Dalle cose che ho letto, cioè ieri questa mia amica che parla con un suo amico a pranzo, nell'orario di pranzo verso le 13, dice che al telefono dice a lui: noi ci vediamo stasera a cena. E poi verso le 8, dalle 8 fino all'1, fino alle 2 di notte, questo amico e anche altri familiari, altri amici li chiamano, vedono che la donna, la mia amica, non risponde al telefono, pensano che è successo qualcosa, vanno, aprono, cercano di aprire la porta dell'associazione che si trova al primo piano, che poi tra l'altro è un posto, l'associazione si trova, questo ufficio di informazione si trova in un centro vicino a Gard, in una via vicino a Gard Nord di Parigi, che è un posto in realtà come sicurezza è abbastanza anche protetta tra virgolette dalla polizia, molto centrale insomma. Però ecco, questo amico entra dentro, apre la porta perché non ce l'ha la chiave, sforza la porta, vede comunque davanti alla porta che il sangue, cioè vede da per terra il sangue, entra dentro l'ufficio trova tre corpi lì per terra di queste tre compagne, e da lì inizia tutto. Purtroppo io la notizia ho saputo stamattina, questa notizia drammatica, una notizia terribile, diciamo, una cosa che è compiuta, sono i nemici dell'umanità, della pace, che hanno massacrato queste due, cioè tre nostre compagne, che poi fra l'altro, cioè così detto, era iniziata una trattativa tra il governo turco e direttamente anche il PKK, però i lupi grigi, ma anche purtroppo, ecco, una notizia che gira in Turchia, Erdogan stesso, primo ministro turco, ha fatto delle dichiarazioni 10 giorni prima del Capodanno, dicendo che noi dove becchiamo i curdi, attivisti curdi, dove li becchiamo li sappiamo, cioè tipo li facciamo fuori. E queste cose un po' ci preoccupano, queste notizie. C'è una trattativa oppure c'è una trattativa falsa, diciamo, non sa come, diciamo, ha visto la serietà forse del movimento curdo, il governo anche, diciamo, dei, anche quella ala dei fascisti che sono contro la pace in Turchia, si sono trovati ora dentro in una discussione che non forse devono arrivare o a una soluzione o a una soluzione, e perciò si sono, diciamo, hanno iniziato a fare queste cose terribili. Tra l'altro era proprio il giorno, il 31 dicembre, è stato ucciso dalle notizie che mi hanno dato gli amici, sempre un ragazzo che aveva studiato una scuola del cinema, un'accademia del cinema. Infatti noi quest'anno il festival, oltre a dedicare a Mirella Galletti, che era una scrittrice che aveva scritto tanti libri sulla questione curda, una curdologa, e abbiamo dedicato anche a questo ragazzo che era stato ucciso il 31 dicembre dai soldati insieme altri 10 suoi amici e compagni, altri 9, scusami, erano in 10. E per dirvi che la situazione, purtroppo questo massacro terribile a Parigi, noi attendiamo delle notizie anche dal Ministero dell'Interno francese, che devono fare una dichiarazione giusta, equa, da chi è stata fatta. Questa è un'esecuzione terribile proprio in quest'epoca, cioè contro l'umanità, contro veramente, poi contro le donne per noi, per il popolo curdo, sono la vita, il sinonimo della vita è la donna. Sì. Cioè, se iniziamo a massacrare tre donne, poi attiviste di pace, cioè, ti ho detto che conoscevo io personalmente, soprattutto alla 32 anni che ci aveva la mia amica, si combatteva per la pace, sempre a Bruxelles ha lavorato, a Strasburgo ha lavorato e a Parigi lavorava su questa cosa. Vabbè, sicuramente ci metteremo in contatto anche nelle prossime ore per dare notizie più puntuali rispetto a quello che sta avvenendo, Heavy. Allora, rispetto, ci hai detto anche della dedica a queste persone rispetto a questa quinta edizione del Festival qui a Roma, dal 16 al 20 gennaio. Come sarà strutturato? Quante opere presenterete? Noi, allora, ecco, precisando, dedicheremo anche a queste tre donne, che purtroppo hanno perso, ecco, tre compagne che hanno perso la vita, dedicheremo anche il festival a nome, alla loro memoria. Certo. Purtroppo, ahimè, ogni anno quando dedichiamo il festival, l'anno scorso, vorrei precisare questo, l'anno scorso invece, quando abbiamo dedicato alla memoria di Mitterrand, poi nello stesso momento, mentre preparavamo il libretto Volantini, le cose per il festival, avevano ucciso 36 minorenni curdi in un villaggio che avevano bombardato, diciamo, come l'esercito turco. Purtroppo ogni anno, ecco, ci arrivano queste notizie drammatiche. Sì, e noi quest'anno cioè abbiamo selezionato più o meno 20-25 film faremo vedere. Sì. Il festival inizia il 16 gennaio a casa del cinema, che faremo praticamente faremo vedere un film a casa del cinema, prima di questo film che parla del massacro che in una città curda che hanno vissuto i curdi, però indirettamente parla di questo massacro di Marash. Noi faremo un dibattito sul cinema curdo, ci saranno presenti due registe donne e due registi uomini, il dibattito sarà diretto da me. Parleremo dalla storia e fino ad oggi del cinema curdo, perché è arrivato, cioè come è arrivato a questo punto. E poi dopodiché dal 17 gennaio saremo al cinema Aquila. Sì. Noi ogni giorno dedichiamo alle tematiche, come sapete è un consueto, come ecco, il 17 dedicheremo ai richiedenti asilo curdi e il sistema di protezione in Italia, il loro ruolo qui, diciamo il ruolo dei rifugiati politici curdi nel sistema di protezione italiana, diciamo soprattutto ci saranno dei ospiti che hanno avuto a che fare con i rifugiati politici curdi negli anni 90, quando sono arrivato qua, che ancora in Italia non c'era un sistema di protezione diciamo internazionale. Sì. Parleremo di questo, faremo vedere dei film molto molto belli, saranno presenti anche i registi, dalla Turchia, dal Kurdistan arrivano i registi. Quest'anno abbiamo infatti diversi registi di diversi film. Il 18 gennaio parleremo del genocidio. Ci saranno diversi film che fanno vedere del genocidio che il popolo curdo ha vissuto al Kurdistan del Nord, cioè che in Turchia, e poi il genocidio che hanno vissuto ad Halabja, che è stato realizzato dal regime di Saddam. E, dibattito sarà diciamo guidato da un professore armeno che anche lui ha scritto dei libri sui rifugiati politici curdi qua in Italia e ha fatto un ricercatore di origine armena sul genocidio del popolo armeno. E poi il 19 parleremo sempre delle donne, il ruolo della donna, sia diciamo dei film che tramite dei film che faremo vedere. Quest'anno trattiamo diciamo dei matrimoni sin da giovani, quando, per quale motivo e poi che psicologia vivono queste donne quando da piccoli vengono sposati. Ci saranno presenti due registe donne e lì parleremo del ruolo della donna, importanza diciamo del ruolo della donna curda anche nell'ambito del cinema, certo, nell'ambito, certo. Sì, nell'ambito del disagio sociale, diverse tematiche toccheremo soprattutto per le donne. Mm-hmm. E il 20 gennaio ci saranno dei film molto molto belli, toccanti, si parlerà tipo carcere numero 5, c'è un film che si chiama numero 5, ormai quel carcere è diventato un museo, ma diciamo una cosa che io propongo a tutti, questo un documentario, propongo perché anche il sistema carcerario si sta discutendo anche in Italia, come no? E poi parliamo in questa cosa, in questo caso parliamo dei carceri turche. Sì, e sì, poi sì. Avremo, come inconsueto, avremo matinee per i bambini. Proponiamo dei film molto belli, ci sono dei insegnanti che hanno voluto portare i loro diciamo studenti, sia elementari sia le medie, a partecipare di realizzazione di queste matinee, che dei cortometraggi facciamo vedere, che dove i protagonisti sono i bambini, la vita reale, quello che vivono, quello che diciamo per il futuro, soprattutto per il futuro dei giovani, sia qua sia là, per essere un esempio. Mm-hmm. Di questo. Senti Evi, allora ricordiamo le date, c'è una prima tappa alla Casa del Cinema, ricorda il giorno? Il 16 gennaio e 16 gennaio, il 17, e poi dal 17 al 20 sarà al Nuovo Cinema Aquila. Al Nuovo Cinema Aquila. Quindi... Però c'è un'altra tappa, noi faremo un'anteprima, sì, il 14 gennaio sì. al Teatro Valle. Sì. Al Teatro Valle occupato ci sarà, faremo vedere un primo film curdo assoluto realizzato nel 1926, un film muto in bianco e nero, sarà musicato con questa grande musicista curda, Tarajaf, cantante e musicista, che lei musicherà la pellicola con la sua arpa, e poi ci sarà una ragazza che farà un'opera lirica dopo, diciamo, questo film. Noi invitiamo tutti quanti di stare vicino al popolo curdo, vicino alla cultura curda, certo. alle tradizioni curde. Io penso che la cultura, l'identità vincerà tutto, che quello che nell'umanità rimarrà per sempre, nonostante i nemici dell'umanità cercano di cancellare questa cosa tramite l'essere umano, ma una cultura antica, millenaria, centinaia, non scomparirà mai, e chiamiamo tutti quanti di stare vicino a noi anche al Teatro Valle, perché per noi sarà una giornata importante anche per ricordare queste tre compagne che abbiamo perso. Certo, Evi. Allora, per maggiori dettagli chiaramente si possono consultare sia il sito internet del Cinema Aquila, del nuovo Cinema Aquila, che della Casa del Cinema, e poi volevo chiederti, chiaramente anche del Teatro Valle occupato, se c'è anche un sito internet proprio specifico del Festival Curdo. Sì, c'è una pagina Facebook che sapete ormai nel mondo virtuale usa tutto, una pagina Facebook che si chiama il Festival del Cinema Curdo, e poi c'è il sito www.europalevante.org, il nostro sito, che lì anche si vedrà il programma. Evi, io ti abbraccio, è un momento terribile, sono rimasto sconvolto veramente da questa notizia appena arrivato qui in radio, c'è stata, veramente mi ha sconvolto, una cosa simile che io ricordi non era mai capitata, insomma. Un abbraccio a te e spero di risentirti presto. Grazie, ci sentiamo cerchiamo di essere solidali contro i nemici dell'umanità. Grazie. Un abbraccio forte. Ciao, Evi. Abbraccio. Ciao, caro. Ciao. Evi Di Lara, che cura la direzione artistica del Evia Azadie Speranza di Libertà, il quinto festival del cinema curdo, in tre tappe, alla Casa del Cinema il 16 gennaio, poi dal 17 al 20 al nuovo Cinema Aquila, e poi c'è anche una data il 14 al Teatro Valle occupato. Comunque tutte le informazioni sono a disposizione sui siti internet che abbiamo dato come riferimento. Per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info, proseguiamo. Siamo in collegamento con Francesca Buschi di Cineama.it, che ci parlerà... Boschi. Scusami, ecco. No, ti prego subito così. Esatto. Allora, per due rassegne che si svolgeranno al Cinema Lux qui a Roma, una è Cult & Branch e Doc, documentari di origine controllata, dal 12 gennaio all'11 febbraio, quindi un mese con questa doppia rassegna. Francesca, intanto benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Grazie anche dell'ospitalità. Allora, parlaci un po' di questa doppia proposta. Ok, allora guarda, appunto sono due rassegne, già detto insomma i nomi, e si svolgeranno al Cinema Lux, quindi proprio in collaborazione con il cinema. E l'idea è partita appunto da una conversazione con i gestori del cinema per cercare di creare degli appuntamenti che mettessero insieme film, ma anche degli eventi che coinvolgessero poi gli spettatori anche in qualcos'altro. Quindi diciamo che parte da un'idea che è molto nostra di Cineama, di cercare di sfruttare, diciamo, la sala cinematografica anche per degli eventi, quindi viversela in tutto e per tutto. Quindi nello specifico, appunto, Cult & Branch abbina il brunch, quindi anche un evento insomma, che sta diventando anche sempre più di moda anche qui in Italia, qui da noi a Roma. E quindi noi proponiamo alle 11.30 tutti i sabati mattina, abbiamo deciso di farlo il sabato mattina che magari è una giornata ancora non del tutto festiva, però non, sicuramente non di lavoro, e quindi alle 11.30 il brunch nella hall del cinema, per poi far seguire alle 13.30 un film cult della storia del cinema italiano. E questa in particolare l'abbiamo organizzata anche in collaborazione con Minerva Pictures, che ci ha dato dei titoli veramente interessanti anche della Raro Video. E quindi proponiamo il 12 gennaio L'amore in città, che è un film del 1953, un film a episodi di registi insomma famosissimi del cinema italiano, quali Antonioni, Fellini, Dino Risi, Maselli, Zavattini, eccetera. E questo è appunto, ci è sembrato molto interessante partire anche da questo, perché è un po' diciamo un film cult che ci fa vedere anche un po' gli albori di questi registi che poi sono diventati quelli che insomma noi conosciamo, e quindi anche un modo per riscoprire da dove sono partiti e come hanno iniziato a impostare il loro stile. E poi sabato 19 gennaio invece avremo Gruppo di famiglia in un interno, quindi di Luchino Visconti, vabbè anche questo insomma parla un po' da solo come film, comunque strapremiato, con attori famosissimi anche internazionali quali Burt Lancaster. E infine il 26 gennaio Il conformista di Bertolucci, quindi anche questo film sicuramente conosciuto, magari per chi non l'ha visto da vedere sicuramente, per chi l'ha visto anche da rivedere, perché no, soprattutto in sala, perché appunto sicuramente fa un altro effetto, insomma per noi il film è comunque da vedere in sala. Per quanto riguarda invece i documentari? E invece per quanto riguarda i documentari, l'appuntamento è tutti i lunedì a partire dal 14 gennaio, e in questo caso appunto sempre per abbinare con un evento e insomma chiacchierare anche un po' prima della proiezione, ci saranno appunto delle case vinicole e birrifici artigianali che presenteranno, offriranno una degustazione a chi sarà presente al cinema, e sono tutte case appunto artigianali, anche insomma, biologiche, di nicchia, insomma comunque da scoprire del nostro territorio, da scoprire, e abbinate appunto a queste degustazioni, chiaramente come centro degli eventi sono i documentari. Si parte il 14 gennaio con Project Nim di James Marsh, regista anche di Man on Wire, quindi insomma, sì, Premiato anche agli Oscar, e con una presentazione di Mario Sesti del Festival di Roma, Festival di Taormina. E a seguire il 21 gennaio Hit the Road Nonna, un altro documentario italiano in questo caso di Duccio Chiarini, anche questo molto premiato, anche non per ultimo Arcipelago, e un documentario molto interessante che racconta la storia della nonna del regista, che è stata sì, anche una delle inventrici del prêt-à-porter italiano ma anche internazionale. E sempre sulla moda, continuiamo il 28 e il 29 gennaio. Il 29 è un martedì, ma diciamo lo consideriamo un po', l'abbiamo messo un po' come evento speciale per presentare dei documentari sulla moda in occasione anche dell'iniziativa Alta Roma, che si svolge a Roma proprio in quei giorni. Quindi il 28, in collaborazione con Feltrinelli Real Cinema, presentiamo Diana Vreeland, l'imperatrice della moda, sulla storia, la vita di una delle donne più importanti del XX secolo, praticamente la direttrice di Vogue, che ha un po' messo le basi di quelle che sono, di quello che era il gusto e la bellezza praticamente nel nostro secolo. E il 29, quindi martedì, About Face, dietro il volto di una top model, anche questo in collaborazione con Feltrinelli. presentato tra l'altro anche in anteprima al Sundance Film Festival e con moltissime testimonianze di figure leggendarie del mondo della moda. E ancora poi lunedì 4 febbraio Italy Love It or Leave It, un'altra chicca del documentario italiano dello scorso anno di Gustav Hofer e Luca Ragazzi. E, appunto un documentario veramente molto molto carino, interessante per insomma, vedere un po' com'è la situazione italiana di questo periodo anche di crisi, però farlo anche con un occhio anche un po' ironico, anche divertente. E infine l'11 febbraio il Mondiale Dimenticato dei registi Lorenzo Garzella e Filippo Macelloni, anche questo quindi è un documentario italiano che in realtà è più un documentary, sì. Quindi un falso documentario, però veramente costruito in maniera proprio molto divertente anche questo, e può sembrare assolutamente un documentario, infatti vale la pena vederlo, e tra l'altro sì. Questo può essere interessante anche per gli appassionati di calcio, perché parla del mondiale del 1942, apparentemente mai giocato, ma in realtà appunto quello che vogliono dimostrare i registi è che effettivamente ci sono delle prove per cui è stato realizzato. Tra l'altro aggiungo che gli autori italiani della rassegna DOC sono stati già tutti i nostri ospiti, quindi abbiamo avuto anche modo di parlare di questi lavori. Bene, e tra l'altro sì, salvo imprevisti, perché insomma quello può sempre succedere, soprattutto per registi che vengono poi chiamati in diversi festival, e questi sono tutti documentari che vengono tuttora chiamati anche in festival internazionali, i registi saranno sempre presenti in sala, quelli italiani ovviamente, quindi Duccio Chiarini il 21, il 4 febbraio speriamo di avere Hofer, Gustav e Luca, e appunto l'11 Lorenzo e Filippo per il Mondiale. Bene. Allora Francesca, ti ringrazio, a risentirci. Grazie. Presto, gli appuntamenti li abbiamo dati al Cinema Lux qui a Roma dal 12 gennaio all'11 febbraio, Cult & Branch la prima rassegna, la seconda è Doc, documentari e documentari di origine controllata. Esatto, aggiungo solo una cosa piccolissima, che chi si iscrive al sito di Cinema e scarica il coupon direttamente in home page una volta loggati ha diritto a uno sconto di 2 euro su entrambe le rassegne. Quindi può valer la pena, insomma, fare una visita e scaricare il coupon. Bene, a risentirci. Va bene, grazie mille, grazie a voi. Ciao Francesca. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Francesca Boschi di Cinema.it. In collegamento con Giulia Zoppi, responsabile di Diari di Cineclub, periodico indipendente di cultura cinematografica. Giulia, intanto benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Grazie dell'invito, una trasmissione bellissima, io non la conoscevo, complimenti. Ah, ti ringrazio. Allora, una nuova creatura per quanto riguarda Cineclub, una rivista in qualche modo, un periodico, mi piace già la denominazione indipendente, parlacene un po' di questo progetto, Giulia. Sì, intanto premetto col dire che non sono responsabile di Diari, nessuno è responsabile dei Diari, non so chi abbia scritto quello, ma di fatto probabilmente è stato una svista di Angelo Tantaro, è stato poi in realtà è il deus ex machina di questo progetto. Non ci sono responsabili né padri né padrini, nemmeno per noi, come bene. Voglio dire. Io di fatto quindi sono semplicemente oggi un portavoce, perché bello. Farò parte della redazione, una redazione piuttosto fluida, perché di fatto siamo 4-5 persone, ma contiamo di allargarci moltissimo. È un progetto che nasce con l'idea di aprirsi intanto a tutte le associazioni di cultura cinematografica indipendente afferenti al MIBAC, ma non solo, perché poi in realtà vorremmo aprirci a tutti. E quindi nasce come foglio elettronico inizialmente, che si potrà scaricare andando sul sito del Cineclub Roma Fedice, ma che poi in un futuro vorremmo che diventasse qualcos'altro, non sappiamo se cartaceo o comunque online per tutti, e si tratta di un periodico a cadenza probabilmente mensile, ma forse anche più ravvicinata, che avrà lo scopo di diffondere appunto tutto quello che è la produzione e la distribuzione del cinema indipendente italiano, corto, medio e lungo, di fatto, con l'intento di far contribuire non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche chi di fatto si occupa di quelle discipline che in qualche maniera comunque col cinema hanno a che fare, come le arti in generale, insomma, e tante altre discipline. Senti Giulia, allora, per sommi capi, come sarà strutturata, come sarà strutturato questo periodico? Ma senti, allora, ci saranno delle rubriche fisse, sì. E mi piace segnalare quella di una brava critica, giovane critica, Maria Cristina Caponi, che si occupa intanto di fare la recensione in poche battute di quelle che sono le riviste appunto prodotte da queste nuove associazioni. E di fatto tutto questo avviene perché la rivista cartacea sta vivendo un momento di crisi profonda, certo. È molto, molto meno diffusa di una volta, in realtà ha fatto la storia del cinema finché il cinema era anche un altro, e quindi lo scopo è quello di far conoscere a chi non conosce delle riviste storiche che poi di fatto hanno avuto un'importanza preminente per la cultura italiana in generale. Dopodiché ci sarà, per esempio, io mi occuperò esattamente di quelle che sono quelle piccole definizioni che di fatto hanno a che fare con il cinema, ma che magari vengono usate nel linguaggio corrente ma che non si conoscono. Per esempio il prossimo numero, il numero 2, parleremo appunto, io parlerò di cinema de sé, cosa significa davvero, ecco. E Paolo Michalizzi, che fa parte anche lui della redazione, ha fatto un excursus invece su quello che è stato un seminario organizzato a Napoli dal professor Vincenzo Esposito a proposito della documentario etnografico organizzato dalla FICC, e poi ci saranno varie segnalazioni, faremo comunque riferimento al blog di Claudio Gifava, che è un personaggio mitologico della critica cinematografica, e poi ci saranno contributi di Italo Moscati, di Enzonata, insomma di tanti personaggi che col cinema vivono da anni, insomma ce l'hanno fatto conoscere. Allora, come sarà possibile fruirne? Ecco, se potrà fruire di questa rivista appena nata, che ha già comunque dedicato il primo numero alla scomparsa di Marino Borgogni, che era l'animatore del Vandarno Cinema Fedice, andando a scaricarla direttamente sul sito di Cineclub Roma Fedice, www.cineclubromafedice.it. Sì. E poi naturalmente se qualcuno ci vuole scrivere e mandare le proprie impressioni, idee e contributi, lo può fare a tutto attaccato minuscolo, diari di cineclub @gmail.com. Proprio a partire da questo titolo, diari di cineclub, Giulia, sì. Ti chiedo qual è lo stato delle cose rispetto proprio alle sale amatoriali, insomma appunto del cinema de sé che nominavi prima. Sì, e allora io posso parlarti per un'esperienza vissuta, io non riesco più di fatto a frequentarle per mancanza di tempo, ma credo che appunto una delle cose che mi è piaciuta di questo nuovo progetto editoriale è quello di cercare di far rivivere una realtà che rischia la polverizzazione, cioè di fatto lo è, i vari circoli non sono in rete, non conosciamo magari l'attività l'uno dell'altro, ci sono delle realtà che funzionano molto meglio, altre che funzionano molto, molto meno, perché naturalmente il cinema non si fruisce più all'epoca come certo. L'epoca del dibattito, no? Il dibattito sì. No, e chiaramente è ovvio, il cinema è cambiato, sono cambiati i linguaggi, è cambiato tutto, quindi la sfida è veramente di far rivivere, no? Realtà sì. Che ci sono ancora, che tra l'altro in alcuni casi sono realtà vivaci e ancora pieni di iniziative che stanno cercando comunque di trovare nuove forme di aggregazione, di promozione e di esistenza di fatto, ecco. E questo diario è un po' il modo di tenere legati tutti questi circoli, tenere legati tutti gli associati, far conoscere a tutti quanti noi cosa viene fatto, perché, per come, quali sono le situazioni, come ci si può anche aiutare, no? Tra cineclub, cineforum, eccetera, eccetera. A proposito di associati, allo stato attuale quanti ne sono? Guarda, io mi fai una domanda a cui non so rispondere. Sono molte migliaia, ma esattamente il numero non lo conosco. Comunque è una dimensione comunque estesa e importante, mi pare di dire. È una dimensione estesa e importantissima di fatto, cioè nel momento in cui mi hanno dato più o meno, diciamo, un po' la situazione, la chiarezza su una situazione che io, appunto, ti dicevo, non conoscevo più, perché poi mi sono occupata soprattutto di scrivere sul cinema, ma di frequentare i cineclub molto meno. Sono rimasta veramente molto colpita di quanto ancora ad oggi, nonostante tutto, ci siano tantissime aderenti. Questa è una cosa che fa molto piacere, perché il cinema è veramente un rito collettivo, per quanto ormai si tenda sempre di più a renderlo qualcosa di molto ristretto, addirittura individuale. Giulia, chiudiamo ricordando nuovamente i riferimenti internet per chi volesse saperne di più. Sicuramente sì, allora www.cineclubroma16.it è per scaricare Diari di Cineclub, che a breve uscirà con il secondo numero, e poi per scriverci a diari di Cineclub @gmail.com. E se vuoi, se mi permetti, vorrei anche segnare la mia rivista, perché mi tengo particolarmente alla rivista che ho insieme a Marco Dotti, che è www.tism.org, una rivista di critica cinematografica, filosofica e letteraria, insomma, qui noi da persone libere contribuiamo con una grande passione. Benissimo. Giulia, spero di risentirti presto. Sì, io ti devo intervistare. Quindi, ah, beh. Quindi ti scriverò appunto per l'intervista sui diari del numero 3, ecco. Da intervistatore mi ritrovo intervistato. Sì, benissimo. Naturalmente. Grazie infinito. Un abbraccio, a presto. Ciao, a presto, ciao, ciao. Giulia Zoppi, responsabile di Diari di Cineclub, periodico indipendente di cultura cinematografica. Per comunicare con noi, visionari @ondarossa.info, adesso passiamo al cinema vero e proprio, nel senso dovremmo avere ospiti due registi. Ritroviamo sul nostro cammino Andrea Zambelli in questo ambito, invece regista del documentario L'uomo che corre. Ci eravamo sentiti per un suo precedente lavoro. Andrea, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie di avermi richiamato. Allora, ricordaci intanto il tuo lavoro per il quale ci eravamo sentiti la prima volta. Ma era un lavoro particolare, si chiamava Tecno, il respiro del mostro, ed era un documentario che prendeva in esame più o meno 10 anni di storia del movimento techno underground in tutta Europa. Sì, sì, sì, ricordo. Allora, L'uomo che corre invece di cosa ci parla? Vado proprio al contrario, invece che raccontare un movimento, concentro tutto su una persona sola, che è questo muratore bergamasco di all'incirca 60 anni, che avevo già conosciuto precedentemente per un lavoro sui Ultras dell'Atalanta, perché lui è stato uno dei fondatori storici del primo gruppo organizzato Ultras qua a Bergamo. Se non sbaglio, poi il Caos. No, ancora più vecchi, ancora. Commandos, Pre-Wheel Caos, questo qui si parla proprio del 69, forse, una roba del genere. Ancora pre-brigate, insomma, proprio l'antesignano del movimento Ultra. Quindi un personaggio piuttosto particolare, poi lavoratore, comunista, un personaggio veramente old school. Ma praticamente 3 anni fa lo incontro in un bar e ci scambio 2 chiacchiere e vedo che ha una faccia totalmente stralunata, proprio come da post-rave party. Gli dico, ma cosa hai fatto? Mi fa, ho corso questa gara di 48 ore di fila, e quindi scopro che questo personaggio è una specie di guru nel mondo delle ultramaratone, quindi di gare che vanno superiori ai 100 chilometri. Quindi una di quelle gare cosiddette estreme. Estreme, perché lui mi ha detto, guarda che sto preparando sta gara l'anno prossimo, che saranno 1000 miglia di gara continuativa, quindi 1609 chilometri. E io ho detto, ma com'è possibile? Mi fa, sì, sono ai 14 giorni al massimo, devi fare all'incirca 90-100 chilometri al giorno. Se fai meno di 80 chilometri vieni eliminato, puoi dormire quando vuoi, puoi mangiare quanto vuoi, devi solo totalizzare la corsa. E ho detto, vabbè, ma dove corri? Mi fa, Atene. Ho detto, pensavo vada Atene a qualche punto. No, la gara si svolgeva sul circuito di un chilometro all'interno di un aeroporto che adesso non è più in funzione, ad Atene. Quindi ho pensato, già l'impresa è titanica, finalmente ho l'occasione di concentrarmi sul percorso narrativo di un eroe solo, che mi permette un approfondimento molto, molto, insomma, molto dentro la cosa. E in più c'era anche questa particolarità di un ambiente piuttosto strano dove lui correva, perché erano tutte quelle strutture costruite per Atene 2004 che poi sono state praticamente quasi abbandonate. Come qua in Italia, e, insomma, ce ne sono. Sì, è come quando c'è sempre l'evento sportivo, esatto, grosso, esatto. Che è come Winter Games a Torino un po' di anni fa, insomma, sì, sì, sì, quel sì. Tipo di speculazione lì, chiamiamola così. E vabbè, niente, io gli ho proposto quindi di fare un film con lui. È stato molto interessante perché l'ho seguito per tutti i 9 mesi che precedevano la gara, e quindi l'allenamento per arrivare a una gara così dura circa un anno più o meno, preparare il tuo fisico per questa cosa. Senti, una dimensione internazionale, quanti atleti e folli coinvolge? È interessante perché prima di tutto non c'è distinzione di genere in queste gare, per cui sì. Le donne corrono insieme agli uomini. E c'era gente da tutto il mondo, nel senso che c'era, vabbè, lui era l'unico italiano, poi c'erano 3 greci, 3 tedeschi, Repubblica Ceca, Hong Kong, Giappone, Finlandia, 2 atleti della Finlandia. Era un po' un panorama, chiaramente non ci sono gli atleti africani, perché gli africani sono dirottati verso gare dove esiste anche un circuito, diciamo così, di business o comunque di rientro economico. Questi pagavano 700 euro a testa per partecipare alla gara, oltretutto la cosa, perché è una manifestazione sportiva totalmente antitelevisiva e quindi anticommerciale, perché è esattamente quello che la TV non vuole, sì. Un gesto molto lungo, sempre uguale, la TV privilegia lo sport estremo in cui c'è il microgesto, non so, BMX o tutti quei sport estremi dove c'è il microgesto che si vede subito e quindi è... Per cui passa sostanzialmente nell'oblio televisivo e nell'oblio del sistema spettacolo legato allo sport. Questo mi rendeva ancora più interessante, certo. La cosa, perché sono veramente dei samurai della corsa, cioè sì. Una dedizione veramente. Quindi alcune decine sono le persone coinvolte, e è un appuntamento quindi immagino annuale, perché se prevede... No, quella lì era la prima volta che si svolgeva una gara così lunga, okay. Perché il massimo era stato, se non sbaglio, erano i 6 giorni, la gara prima, e questo era quasi il doppio, insomma, perché alla fine è durato, ci ho messo 13 giorni, è arrivato terzo tra l'altro, quindi ha fatto un ottimo risultato. Andrea, hanno una loro rete per... Ci sono un po' di siti specializzati rispetto alla corsa, se per esempio digiti ultramaratone sicuramente in internet, sicuramente incontri quella di Atene, che è stata un po' la prima e anche la più grossa, insomma, che è organizzata da questo medico, che è anche lui un corridore greco. E in generale poi fanno riferimento a runner, a questi tipi di riviste che parlano proprio della corsa, insomma. Mm-hmm. Anche in Italia ce ne sono alcune, però sono tutti tipo 100 km, al massimo 48 ore. Mm-hmm. Andrea, come hai vissuto questi 9 mesi a riprendere questo personaggio? Ma è stata l'esperienza fisica più dura che abbia mai no, perché lui correva, però io stavo dietro a lui con la macchina, per cui andavo un po' ho preso i suoi ritmi di sonno, che erano massacranti, perché lui dormiva non più di 3 ore al giorno e poi faceva tipo dei microsonni di 20 minuti, aveva impostato la strategia così. Uh-huh. Perché ognuno imposta la sua strategia, uno può decidere di correre 14 ore e dormire 10. Invece poi ho visto che la maggior parte faceva tipo 3 ore di sonno continuative e poi i microsonni, ma diciamo che non ho mai visto tanta sofferenza fisica così da vicino, perché cioè, i piedi dopo 10 giorni di corsa letteralmente esplodono, cioè, ho visto dei concorrenti tagliarsi le scarpe perché i piedi erano troppo gonfi, mm-hmm. E riscocciarsi e continuare... Più della metà non è arrivata alla fine, ha mollato. Insomma. Beh, ci sono degli elementi di autodistruzione, insomma, sicuramente. Sì, ma anche un elemento di ricerca del proprio limite. A me quello che mi affascinava era che lui vive questo proprio come una ricerca filosofica su se stesso. Sì, la corsa è un mezzo per scoprire se stesso. E e per scoprire qual è il tuo limite, e visto che poi non ci guadagna niente, comunque è uno che, cioè lui è pazzesco, gli fa 8 ore di cantiere invece di muratura, nella pausa pranzo va a correre, sì, mi ha fatto questa scena che era sul cantiere, i suoi compagni di lavoro si fermano a mangiare il panino, lui prende e va a fare 30 km, torna e ricomincia a fare un lavoro che fisicamente è comunque abbastanza estenuante. Ecco, lui è un personaggio totalmente alieno a qualsiasi dimensione di business, non riesce a promuoversi, si spesa tutto lui, non vuole saperne lui di un coinvolgimento, non si fa neanche dare le scarpe dagli sponsor, proprio è uno... veramente un duro e puro di quelli degli ultimi, penso. In parte già mi hai risposto rispetto, ecco, alla filosofia della ricerca dei propri limiti, ma quali, volevo chiederti in senso più esteso, quali impressioni hai ricavato da questa esperienza? Ma in generale, allora vabbè, per me prima di tutto era un'occasione anche per avere un'azione sempre uguale, che viene, sì, ripetuta per 12 giorni, per cui... era un periodo che stavo comunque ragionando continuamente sul rapporto tra lo spazio e il tempo all'interno dell'immagine documentaria, per cui ho trovato proprio questo film come un motivo anche per me stesso di fare questa ricerca. Poi comunque ha avuto un percorso produttivo molto difficile, per cui alla fine si è riuscito a produrlo veramente al rotto della cuffia. Diciamo che c'è stata una bella, si è creata un'unità di intenti tra me e lui, nel senso che la sua avventura era far la corsa, la mia avventura era riuscire a fare un film sulla sua esperienza. Diciamo che abbiamo combaciato bene, no? Perché da un lato lui aveva l'esigenza di raccontarsi, io avevo l'esigenza di raccontare, quindi ci siamo incontrati molto forte. In generale, quello che ho visto, che sono dati anche interessanti, tutti i concorrenti inferiori ai 40 anni si sono ritirati. Hanno vinto, quello che ha vinto da 53 anni, il mio Lucio, che è un personaggio mio, ne ha 57, poi è arrivato secondo 56, me l'ho trovato abbastanza strano, no? Perché comunque sì, dici, c'erano ragazzi di 28 che sono crollati dopo 3 giorni, perché non è il fisico lì, è la mente che ti dà surplus. Certo, certo. Per esempio quarto, quinto e sesto, 3 donne, e le 3 donne che c'erano hanno totalizzato un ottimo risultato, proprio volontà, carattere e anche una lieve dose di, non direi di follia, però di invasamento quasi fanatico rispetto al gesto, rispetto alla corsa. Lui comunque, cioè, ha degli sfasi, ho trovato le attinenze, diciamo, anche col lavoro dei Ravi, perché vedere, cioè, gli chiedevo le sue impressioni psicofisiche e, cioè, è un'esperienza mistica, nel senso di correre per così tanto tempo. Senti Andrea, l'uomo che corre, io l'avevo segnalato all'interno del Via Emilia Dog Fest, dove sarà possibile vederlo oppure dove, se sono previste prossime proiezioni o è prevista una... Guarda, sto aspettando una risposta dal Bergamo Film Meeting, okay, per presentarlo come prima italiana al Bergamo Film Meeting. È stato presentato a livello internazionale al Saratov International Film Festival, che è un festival di cinema che si tiene in un quartiere di Mosca, e che è proprio, quest'anno la denominazione Cinema della Sofferenza. Noi l'abbiamo mandato così, un po' pensando che era magari più a sfondo di sofferenza sociale o di questo tipo di questioni. Invece evidentemente l'hanno selezionato e ha anche vinto il premio di documentario internazionale, insomma, di creazione. Senti, e per avere maggiori informazioni in internet avete... Allora, fa riferimento alla Bottanta Film, che sono la struttura che ha prodotto il film. Il sito è www.labottanta.it, mi sembra. Benissimo. Di ricordare, e lì ci sono più o meno tutte le informazioni relative anche alla produzione, c'è un trailer, un minimo di racconto di come si è strutturata la produzione del film e anche le successive. Adesso, appena abbiamo questa risposta, inseriremo anche se c'è questa presenza al Bergamo Film Meeting, e poi capiremo di mettere in piedi una distribuzione, non so bene come, perché comunque ho visto che anche distribuire i film è veramente difficile in Italia, nel senso che le televisioni non ti danno sponda rispetto a questa cosa. La distribuzione di DVD ormai ho visto con Tecno, fatti 50 DVD, è esploso sulla rete in maniera massiva. Insomma, quindi sto cercando di capire una formula che potrebbe essere quello del download a 1 euro su un sito, un tipo di insomma, cercare una modalità, diciamo così, più contemporanea e più adatta anche all'ipotetico pubblico che può ricevere il film, e quindi di riuscire facilmente a trovarlo in rete senza tutta la menata ai DVD, dello stampa e... Certo. e della cosa, insomma. Andrea, è stato anche stavolta un piacere e una curiosità forte, spero di risentirti presto con delle novità. Ok, sì, guarda, stiamo partendo per Gaza con un gruppo misto, tra cui c'è anche delle persone di Roma, per fare questo film documentario, questo docu-fiction. Ci tratteremo a Gaza un mese e mezzo. Sì, ne abbiamo già parlato, tra l'altro, di questo progetto. Sì, perché è un film collettivo, con siamo un gruppetto che ha organizzato la cosa, di una quindicina di persone, e ci curiamo un po' tutti, cioè cerchiamo di veramente cercare di ritornare all'idea di cinema come arte collettiva, insomma, con tutte anche le difficoltà del caso. Certo. Però abbiamo trovato un'unità di intenti sul soggetto e sul taglio di regia da dare, e quindi partiamo, insomma. Beh, speriamo a questo punto di riparlarne presto. Ok. Andrea, un abbraccio, a presto. Grazie mille. Ciao. Beh, curioso veramente. Andrea Zambelli, regista del documentario L'uomo che corre. A questo punto speriamo veramente di avere presto novità sul lavoro rispetto a Gaza. E ritroviamo anche un altro autore, Giuseppe Sansonna, regista questa volta del cortometraggio Ultimo Giro. Giuseppe, ci sei? Ci sono, oh. Buonasera, ciao a tutti. Ben ritrovato e auguri anche. Grazie, auguri anche a voi. Allora, Ultimo Giro, me l'hai proposto per mail, il tema mi sembrava piuttosto singolare, e allora parliamone. Dunque, non è innanzitutto l'elogio della simpatica canaglia, è un cortometraggio che avrà per protagonista un vero truffatore che da 50 anni vive usando queste tre campanelle, questa pallina di stoffa, ovvero fa una versione rinnovata del gioco delle tre carte. Io ho scritto lo conosco perché è il migliore amico di mio zio che fa il barbiere in quella che fu la casbah storica di Torino, il quartiere Porta Nuova, il quartiere Stazione, che ha vissuto varie stratificazioni di ondate di immigrati di varia provenienza, e quindi io lo conosco bene. Ho scritto una sceneggiatura ricavata dai suoi racconti esistenziali e gliel'ho cucita addosso, e lo voglio ingaggiare, voglio sperimentare la sua rodata serialità per ingaggiarlo e fargli fare l'attore con la sua faccia da Mel Brooks un po' canaglia in questo corto. Senti, allora, questo un po' c'hai, per sommi capi ci hai illustrato il personaggio. La storia che hai voluto raccontare? La storia che ho voluto raccontare è una storia di mancata redenzione. Vabbè, si parte da una storia vera che è accaduta a lui. Lui è un po' deformata, ma lui ha un giorno, lui in realtà accompagna anche le vittime, che tra l'altro continuano a lavorare, vabbè, a parte questo è un dettaglio, lavorare virgolettato, comunque lui accompagna queste vittime che si consegnano ha ancora questo tipo di truffa anacronistica, le accompagna al bancomat a prendere altro denaro da lasciare in questa bisca improvvisata di strada. Lui un giorno ha incontrato un ragazzo che era, parlandoci insieme, lui fingendo di essere un passante che collabora con lui, parlandoci insieme ha scoperto che questo ragazzo era venuto a vedere la sindone a Torino, quindi si è un po' impietosito davanti anche un po' a questa sorta di vena mistica, e a un certo punto gli ha detto: guarda, vattene, ti prego, siamo tutti truffatori, e l'ha allontanato. Allora, da questo spunto senile, no, di una persona che comunque è sempre vissuta in strada, è sempre vissuta questi aspetti con un certo cinismo, una certa feroce, mi è venuta l'idea per cucire una sceneggiatura che mostrasse anche le sfaccettature complesse della persona, perché ripeto, non voglio elogiare la canaglia simpatica. Voglio raccontare uno spaccato antropologico, certo, di uno che immutamente antropologico li ha vissuti tutti sulla pelle. Questo è interessante. Senti, a questo proposito, la curiosità è come nasce il gioco delle tre carte? Che origini ha? Hai saputo qualcosa in proposito? Ma io credo che affondi sia sicuramente credo di origine napoletana. Lui l'ha preso, in realtà lui è strano, perché quando mi ha detto lui non l'aveva mai visto fare a Napoli. Lui è arrivato a Torino negli anni 60 e vedeva questi crocicchi di persone e si è avvicinato e cercato di capire cosa stavano facendo, e gradualmente osservando è diventato un maestro, provando allo specchio, mi raccontava che sono aspetti anche curiosi, no? Lui provava allo specchio quando funzionava ancora con le tre carte prima e con i campanelli dopo, che è una variante implacabile del campanello, perché la pallina di stoffa tu la puoi mettere dove vuoi, anche quando la vittima ha già individuato il campanello, tu la fai sparire da sotto e la metti sotto un'auto. Invece le tre carte, comunque, il trucco lo puoi capire se hai occhio. vecchio, sì. E lui osservando, quindi lui a Napoli all'epoca non l'aveva visto, ma probabilmente c'era, lui è di San Giovanni a Teduccio, un sobborgo di Napoli, un sottoproprietario pasoliniano, tra l'altro, cioè, mi raccontava che il padre li portava, non lavorava, li portava a mangiare gli avanzi degli operai dei cantieri navali di Napoli, insomma una vita particolare, no? Ed era balbuziente fino a 18 anni, poi a Torino si è sbloccato, quando è venuto per lavorare in Fiat si è sbloccato e ha cominciato ad acquisire una favella e una parlantina che poi sono il sale della sua vita. Senti, tra l'altro nel trailer che mi hai messo a disposizione, lui giustifica la cosa dicendo che comunque chi gioca, lui non specula sul bisogno, perché chi comunque gioca dei soldi vuol dire che li ha da spendere in qualche modo. È anche un po' il risvolto della malattia del gioco, in qualche modo, dello scommettere. Però insomma questo sosteneva lui. Sì, anche se quella è una dizione formulaica che lui ha assunto appunto con gli anni, che ormai è anche... però è interessante perché si allaccia al suo contrappasso, perché lui ha tolto, come Super Chuck, non so se ti ricordi, l'eroe di Alan Ford che rubava ai poveri per dare ai ricchi, lui ha sottratto in queste bische di strada ai malcapitati per dare poi ai ricchi proprietari dei casinò e delle bische, perché il suo contrappasso è quello di aver devoluto, come tanti suoi colleghi, poi appunto vittime dello stesso ingranaggio, pur consapevoli, questo è un altro aspetto, sì, per una metafora terribile, no? Cioè, i poveri che si fidanzano da soli per poi consegnare tutto ai ricchi, no? Cioè, è una tragica, illuminante metafora, porca miseria, sì. che ben viviamo sulla nostra pelle, no? Insomma, se sarei d'accordo. Sì, sì, un paradosso totale, insomma. E quindi questo, sì. E poi lo stiamo finanziando in parte anche col crowdfunding, come ti scrivevo, lo produce la Redibis Film, che è la casa di produzione torinese, Daniele De Cicco e Daniele Segre, e niente, troveremo anche dei soldi anche in altro modo, dei finanziamenti con sponsorizzazioni varie, però l'idea di fare una scheggia di cinema completamente libero, autonomo, con un sapore anche legato ai noir francesi degli anni 60, quelli dell'adorato Melville, insomma, di calare in quella Torino che un po' tende alla Francia, un po' anche nella atmosfera un po' livide, e calare questi personaggi. Se sono circolato da tutti attori professionisti, lui farà se stesso, quindi la parte cucita su di lui è un esperimento di questo tipo. Senti, e per avere maggiori dettagli e in qualche modo anche partecipare, ci dai tutti gli estremi? Sì, sul sito Eppelà, il progetto si chiama Ultimo Giro, se uno digita su Eppelà cerca Ultimo Giro della Redibis Film di Giuseppe Sansonna, autore, che sarei io, e trova tutto, trova anche il modo di contribuire con la PayPal. Poi se mi si contatta su Facebook in privato, io mando la sceneggiatura, converso a proposito di tutte le tecniche che userò, di regia, di racconto, e insomma illumino su tutto, sono a disposizione. E a questo punto spero che avremo modo di riparlarne a risultato finito, insomma. Lo spero anch'io, e ti ringrazio comunque di questa disponibilità, di questo spazio, come sempre. Giuseppe, a presto. A presto. Un abbraccio, auguri, ciao. Ciao. Giuseppe Sansonna, regista del cortometraggio e il progetto di documentario Ultimo Giro. E con questo abbiamo concluso oggi. Pensavo avremmo avuto modo di chiudere prima, invece poi sì, ci siamo dilungati. Abbiamo avuto diversi ospiti, soprattutto per quanto riguarda rassegne cinematografiche, ma anche di un paio di documentari. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio, www.ondarossa.info, la pagina sulla colonna centrale c'è la colonna trasmissioni, cercate Visionari, trovate gli ospiti, intanto i più votati tra i 5 film usciti nelle sale nel 2012 secondo i voti e le menzioni dei 15 colleghi e amici critici cinematografici che ho avuto modo di sentire in trasmissione sia giovedì 27 dicembre che giovedì 3 gennaio. E quindi i risultati, li ripeto ancora una volta, sono Ugo Cabré di Martin Scorsese con 10 voti, Amur di Michael Haneke con 9 voti, voti Skyfall di Sam Mendes con 4 voti e 2 menzioni, Il sospetto di Thomas Vinterberg con 4 voti, L'intervallo di Leonardo Di Costanzo con 3 voti e 3 menzioni. E poi trovate anche le uscite in sala di oggi, giovedì 10, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e per quanto riguarda gli altri appuntamenti in giro per l'Italia, c'è l'agenda che segnala rassegne e festival e quant'altro. In fondo alla pagina il link invece che rimanda all'archivio del 2012, tra poco sarà sostituito da quello nascente del 2013 con tutte le puntate andate in onda lo scorso anno. È tutto, ci sentiamo giovedì